Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo un po' in ritardo di qualche minuto, ma siamo sempre qui, presenti, staccanovisti come non mai, per chi ama la musica, Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara, di nuovo insieme, anche se oggi è lunedì. Ciao Maurizio! Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, beh, siamo di nuovo insieme nella prima parte. Poi dopo abbiamo saltato una cosa giovedì, molto importante dopo le 10:30. Abbiamo saltato giovedì, ma insomma. Sì, perché giovedì era festa. Abbiamo fatto un po' di riposo anche noi. Volevo comunicare ai nostri ascoltatori che mercoledì ci siamo, anche se ecco, è il primo maggio. Ecco, bene. Siamo sempre presenti. Allora, torniamo a noi. Buonasera da Blu Radio Vento, questa è la voce di Agostino Spolaore, che anche questa sera, appunto, come dicevo, lunedì, un lunedì d'aprile, insomma, fine aprile, oggi è il 29. Sì, lo stavo per dire. Avevo un po' di... Vabbè. E qui a Blu Radio Vento, diciamo, nelle nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms, questa sera magari se volete chiedere qualcosa alla nostra artista che tra poco presenteremo, che ci sta facendo compagnia dalla Sicilia, e dicevo il numero per i vostri sms è il 346 23 20 033. Come dico sempre io, se volete risparmiare anche i soldi dall'sms, potete tranquillamente mandarmi qualche messaggio o in chat o sulla pagina mia di Facebook, oppure quello di Rossella Aliano, che è la cantante che avremo tra pochissimo in diretta qui nei nostri studi, telefonicamente parlando ovviamente, perché la Sicilia è un po' lontana. Vi ricordo ancora le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, che stasera ci regala una grande chicca. Dopo di questa trasmissione ci sarà un cantante americano, si chiama Dirk Hamilton, che ci verrà a presentare la sua musica qui dal vivo in acustico, ovviamente dall'America, quindi pensate voi dove arriva Blu Radio Veneto anche come ascolti. E poi ancora il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete tranquillamente ascoltare in streaming, basta cliccare su Ascolta la radio, oppure io ho messo anche il player, quindi per andare direttamente nell'ascolto, e potete leggere tranquillamente tutte le notizie inerenti alla nostra regione, ma anche alle recensioni, a quello che mettiamo di presentazione dei nostri artisti che via via si susseguono in questo studio e anche telefonicamente, ovviamente. Tanto per sottolineare la cosa, l'anno scorso, e siamo veramente molto molto fieri, abbiamo raggiunto quota 180 live in studio e non, ma insomma è stato un grande trionfo, se poi mi permettete e mi passate la parola. Purtroppo doveva esserci anche lei in questo trionfo, è un anno e mezzo che ci sto dietro, che mi venga a trovare qui a Padova, ma capisco benissimo la distanza. Rossella Aliano, finalmente ti abbiamo comunque al telefono. Ciao Rossella. Ciao Agostino, ciao Maurizio, ciao Rossella. Bene. Prima o poi ce la faremo, comunque, prima o poi salirò in studio. Guarda, tranquillo. Gli ascoltatori forse non lo sanno, ma tu lo possiamo dire, Rossella, siamo in contatto veramente da quasi 2 anni io e te. Giusto? Ed era una delle artiste che io veramente bramavo dalla voglia di avere in studio, perché mi piace moltissimo il disco che hai fatto, te lo dico anche in diretta, che sentono sì, tutti. Vi ringrazio. Perché Libera Dante è un disco veramente molto ma molto bello. Troverete anche qualche video su YouTube, come per esempio la Taranta, e poi ancora anche... cosa hai messo? Aiutami tu, come video. Su YouTube. Sì, guarda, come video vero e proprio c'è la Taranta. Su YouTube ci sono sempre video della Taranta e Alan Uni, che è un brano di qualche anno fa. Poi insomma mi sono dilettata a fare un copia e incolla di immagini per gli altri brani, giusto per avere in diffusione, certo. Per far ascoltare i brani. Poi come video veri e propri, niente. Per il momento. Però chi volesse ascoltare la tua musica, insomma, trova abbastanza materiale su YouTube. Basta cliccare Libera Dante, insomma, ecco. Qualche brano, almeno una decina di brani credo che ci siano. E quindi potete già rendervi conto di quanto bello sia questo disco. Allora, benvenuta a Blu Radio Veneto, Rossella. Benvenuti a voi e grazie per questa diretta. Cara Rossella, hai cominciato ventenne, ma c'è una cosa molto interessante. Partecipi alla colonna sonora del documentario di Salvatore Fiume, Viaggio di un moderno orgonauta. Come mai sei entrata nel cinema? in realtà non era un film. Non è, beh, sei entrata in questo mondo particolare, che non è musicale assolutamente. Sì, è stata quella la mia primissima esperienza per quanto riguarda, insomma, la musica. Mi ricordo che tramite amici, insomma, c'è stato il passaparola che c'era qualcuno che stava cercando delle musiche dialettali. Mm-hmm. Stava cercando dei provini, appunto. Io avevo, insomma, su una cassettina con un chitarra e voce registrato. La diede a questo mio amico, che a stavolta la diede a un'altra persona, e a stavolta un'altra persona ancora. Gli piacque il brano e quindi, insomma, ci incontrammo con il regista. Lo inserì praticamente. Quindi, come? Lo inserì nella colonna sonora praticamente. Sì, poi, insomma, è stata una bella esperienza, anche perché, insomma, sono stata coinvolta in tutto e per tutto nella composizione della colonna sonora, nel montaggio, insomma, è stata la mia primissima esperienza e da lì ho detto: oh, che bello, mi piacerebbe approfondire. Certo, e poi gli Gnorri, che sono il primo gruppo tuo si chiamava gli Gnorri. Sì, il primo gruppo si chiamava gli Gnorri. Facevamo musiche prettamente popolari, cioè, nel senso, c'erano sempre i brani miei, però suonavamo senza sequenze, suonavamo più in acustico, c'era una mandola, una diamonica, dei tamburi, percussioni, insomma. Poi abbiamo cercato un po' di raffinarci anche qualitativamente nei live. Sì, i live sono stati importanti. Hai cominciato da quel giorno a fare il live, e i live sono praticamente il fulcro di ogni musicista. Il live, senza il live un musicista muore, esatto. Nel senso, se non si fanno live non si può campare, non si traggono le giuste soddisfazioni e non c'è vita musicalmente, no? Perché ok, puoi fare un disco, puoi mandarlo su YouTube, su SoundCloud, eccetera eccetera, però è il riscontro del pubblico dal vivo che poi ti fa sentire quell'adrenalina e quell'emozione che solo il live ti può dare, al di là dei complimenti, ok, hai fatto il disco, è bello, sì, però poi va vissuta anche la musica, no? Certo, proprio va, certo. Respirata col pubblico. Respirata, è una bella cosa, va respirata con il pubblico, cioè un abbraccio con il pubblico, assolutamente. Esatto, è proprio un abbraccio. Che rapporto hai a proposito con il pubblico durante i tuoi live, Rossella? Ma il rapporto che ho, il pubblico, quando è tanto, diventa uno, cioè, nel senso, dimentico di essere, almeno quando ho fatto delle esibizioni importanti davanti a centinaia e centinaia di persone, all'inizio ovviamente c'è il panico, no? Però poi nel momento in cui si sale e si comincia a cantare è come se il pubblico diventasse uno. Certo. Un solo insieme, e si sente l'energia, cioè c'è uno scambio che non si può definire a parole. Ti posso dire solo che poi la paura scompare, ecco. All'inizio vorrei scomparire proprio quando sto per salire, no? La sensazione è sempre quella di scappare, di scomparire, paura, non ce la faccio, anche perché sono abbastanza timida, no? E per i timidi, insomma, affrontare un palco e cantare è sempre un'impresa, però poi alla fine, no, c'è qualcos'altro che mi tiene lì e mi fa compiere quello che mi piace fare più in assoluto. Certo, sei una che dialoga molto con il pubblico durante i tuoi concerti. Oddio, ci provo. Preferisco comunicare attraverso le canzoni, non sono una grande oratrice, non sono, insomma, una di quelle che parla tantissimo, anzi spesso vorrei anche parlare meno, perché magari in preda all'emozione, insomma, quando parlo mi riesce meno, ecco. Quando canto un po' meglio, spero. Senti, e con che formazione ti presenti sul palco? Ma guarda, al momento siamo batteria, basso, fisarmonica, mandola, batteria, e basta. E basta. È sufficiente, cioè, sufficiente. Il liberadante praticamente. E chitarra, ovviamente. Il liberadante praticamente, che nascono dalle tue dita, tu hai detto, dalle mie dita, perché ho cominciato a suonare la chitarra e mi è sempre piaciuto suonare la chitarra. Sì, ho cominciato quasi per gioco, cioè, nel senso, mi sono ritrovato una chitarra a casa che aveva comprato mio fratello. Niente, la prendo in mano e comincio a chiedergli come si fa il mi, come si fa il do. Quindi già con i primi due accordi io vedevo che riuscivo insomma a tirare fuori delle cose mie, no? Ho detto ma aspetta, forse se imparo altri accordi magari riesco a fare delle canzoni più interessanti, no? E così è stato, proprio ho cominciato a imparare la chitarra proprio per comporre quello che avevo in testa, non proprio per studiare lo strumento. Bene. E poi da lì, insomma, da lì poi la prima canzone, poi la seconda, poi le facevo sentire agli amici, alla mamma, ai parenti, ai cugini, oh ma sai, ma che sono belle, ma vedi, ma provo di qua e di là. E poi alla fine mi sono convinta, insomma, che magari del materiale interessante c'era e ci ho messo abbastanza coraggio per quanto riguarda appunto il mio carattere a intraprendere questa strada. E sei diventata la migliore di tuo fratello? No, vabbè, lui è un chitarrista più rock, ah, quindi ecco. Siamo due cose diverse. Senti, Rossella, apriamo le danze? Come vuoi, certo. C'è un Buddha su una spiaggia con una mano sulla pancia. Ride un Buddha sulla spiaggia. La vogliamo con sentire. Una mano sulla pancia. Beve una birra. E il mondo guarda. E si diverte come al circo. C'è molto di Sicilia in questa canzone, vero Rossella? Sì, abbastanza. Credo che comunque la terra di appartenenza faccia molto, no? Nella composizione, nell'arte che viene fuori. Ricordiamo che il pezzo si chiama L'Abbondanza ed è quello che apre l'intero lavoro, cioè Libera Dante. Come ti è venuta questa canzone, Rossella? Tu, questa è una domanda da un milione di dollari. Ma guarda, come tutte le canzoni, viene senza sapere come. Cioè, nel senso, spesso mi capita di star facendo anche altro, no? Di lavorare o di lavare piatti o di essere fuori in macchina e comunque comincio a sentire una melodia nella testa e poi di conseguenza arrivano le parole. Prima la musica. Parole a volte arrivano un po' in subbuglio, un po' fuori posto, poi arrivo a casa e le sistemo e assumono un senso. Spesso non so neanche io che cosa sta per arrivare, no? Come il caso di tante canzoni. E questa è arrivata un po' dall'esperienza. Io pratico il buddismo da qualche anno, quindi mi sono immaginata, insomma, proprio il Buddha dell'abbondanza, insomma, che rideva delle fattezze degli uomini e che ci stava a guardare mentre noi, insomma, continuiamo a fare delle cazzate immense, perdonami la parolaccia. E mi sono immaginata, insomma, questa scena di un Buddha che se ne sta pacifico a ridere di noi, mentre noi, insomma, non abbiamo capito granché di come dovrebbe andare la vita. Insomma, tematiche non leggerissime, però quello mi viene, no? E musicalmente l'abbiamo scelto come pezzo d'apertura, oltre che essere il pezzo d'apertura del disco, è un pezzo musicalmente, come detto, interessante, perché ricorda la musica popolare. Con gli Ignori avevi cominciato a dare il qui della musica popolare. Con questo album, questo Libera Dante, che è un tuo progetto, nasce dalle tue idee, che poi sviluppi, allarghi, grazie anche alla collaborazione degli altri ragazzi. Certo, abbiamo arrangiato insieme i brani. E chiaramente. È proprio, proprio il sapore di popolare. E la fisarmonica, suonata da Salvino Strano, dà un certo tocco. A me è piaciuto molto il pezzo iniziale, abbiamo scelto D'Imperio, l'abbiamo messo su praticamente. Sì, sì, sì, infatti. La fisarmonica, sì, ricorda tanto, insomma, le terre del sud, no? del mondo, poi anche lasciando stare la Sicilia, appunto lo strumento che ho scelto apposta. Ma anche l'arrangiamento a me è piaciuto, anche ad Agostino. È piaciuto l'insieme, l'arrangiamento del pezzo, che ricorda, sì, il cadenzare delle danze, il muoversi della danza. Sì. Quindi siamo riusciti, insomma, nel nostro intento. Era quello che volevamo, appunto, dare l'idea della danza. E ci sei riuscita con questa canzone, in questa atmosfera. Perfetto, sono contenta. Senti, ti porto già i saluti di Gino, l'ascoltautore, che dice: oltre a che alla bella e brava Rossella, Libera Dante è un lavoro super. Ci manda un abbraccio a me, a Maurizio, a Alberto e a tutto lo staff di Blu Radio Veneto. E poi, appunto, dice: oltre anche alla brava e bella Rossella, Libera Dante è un lavoro super. Grazie, grazie. Ricambio, insomma, il saluto di Gino, che comunque mi pare di averlo fra i contatti di Facebook. Lui è un appassionato di cantautori indipendenti, se non sbaglio. Sì, sì, sì, sì. Lui è... Perché non è la prima volta che lo sento dire. Lui è molto fedele a questa emittente, nel senso che ci ascolta spessissimo e ci commenta spessissimo, perché lui è proprio veramente un fan di Blu Radio Veneto. Ci dà l'input, ci dà proprio una mano per scoprire altri cantautori. Proprio è uno un talent scout, possiamo dire questo, Rossella. Ce ne vorrebbero tanti. Ce ne vorrebbero tanti, esattamente. Cioè, una volta c'era una, si chiamava Caterina Caselli, si chiama ancora Caterina Caselli. Adesso un po' ad altri autori non più emergenti, ma una volta aveva cominciato come tale scout anche lei, chiaramente. Sì, poi insomma le cose un po'. Poi si è un po' allargata. Si è un po' allargata, diciamo che si è un po' allargata, sì. Come è stato fare tutto questo disco, Rossella? È stato faticoso, difficile, lungo? Guarda, è stata un'esperienza molto molto molto bella. Nel senso, è stato faticoso e lunga la fase precedente all'entrata in sala. È stato lungo la definizione degli arrangiamenti, che ho scritto insieme a Francesco Emanuele, il chitarrista. Perché insomma all'inizio abbiamo dovuto decidere quale strada ci appartenesse di più, no? Quindi insomma l'arrangiamento di un brano non si fa in un giorno, non si fa in una settimana. Certo. Ci sono voluti anche mesi e mesi per arrangiare un brano, no? Perché magari non eravamo d'accordo su alcuni suoni, magari non eravamo d'accordo su una struttura in particolare. Quindi quello è stato il lavoro dove ci è voluta più pazienza e attesa. Però nello stesso tempo c'era una grande gioia, una grande curiosità di poi vedere come veniva, come suonava il tutto suonato dagli strumenti veri, no? E poi una volta entrato in sala, insomma, già avevamo tutto definito, c'è stata un'atmosfera, insomma, proprio di festa, perché finalmente, insomma, dopo tanti anni che facevamo concerti, dopo tanti anni che promettavamo al pubblico adesso arriva il disco, adesso arriva il disco, finalmente stavamo concretizzando le parole che dicevamo da anni e anni, no? Quindi è stata un'esperienza stupenda, insomma, che non vedo l'ora di rifare, insomma. Ci vuoi già svelare qualcosina? C'è in progetto qualcosa? Spiffera qualcosa dalla tua bocca? Posso dire, insomma, ancora non posso dire granché, però vabbè, posso dire che, insomma, stiamo lavorando ai nuovi brani, siamo appunto in quella fase lì faticosa degli arrangiamenti, che non so quanto dura, perché per esempio per arrangiare Il mondo dell'abbondanza, il disco del 2010, ci sono voluti 3 anni. Siamo stati 3 anni, capito? Quindi, insomma, non ti so dire se ne passeranno altrettanti 3 o se ne passeranno di meno, se ne passeranno di più. Ti posso dire che abbiamo cominciato, comunque abbiamo già qualche brano pronto, ne abbiamo almeno 4-5. Poi ovviamente si deve fare la scelta, no? La scelta anche degli inediti, perché non mi va di fare una compilation, cioè nel senso prendere dei brani a caso, ma mi va di fare un discorso compiuto, cioè dare un senso a ogni singola canzone all'interno di un contesto, ovvero del disco. Certo. Quindi il disco è anche un po' un discorso, no? Cioè, che cosa voglio dire nel prossimo Bravissimo. Album, no? Bravissimo. Quello precedente, per esempio, c'è tanto di fede, di coraggio, insomma, è chiaro che nel prossimo dovrò affrontare un tema diverso, qualcosa di nuovo, insomma, che non ripercorra le orme del precedente. Sempre frutto della tua fantasia a livello testi, comunque. Sì, testi e musica. Non ci sono testi biografici, autobiografici. Allora, i pezzi sono tutti autobiografici. No, nel senso che non sono esperienze tue, volevo dire, insomma, questa è la mia parola. Scusa, non ho capito la domanda. No, ho detto, nei testi delle canzoni, sì, ci sono delle cose che ti sono capitate, delle cose che ti succedono a te, o sono tutte frutte? Certo. Okay, ecco. Anche e non, sì, ma comunque la maggior parte, anche se si scrive di qualcun altro, è sempre filtrato dagli occhi di chi scrive, no? Certo. Cioè, comunque è sempre un'esperienza autobiografica, anche se parlo del vicino di casa, è sempre per come lo vedo io, è per come mi fa vivere. Certo, a me. Certo. Bene, facciamo ascoltare... Sì, facciamo sentire un altro pezzo che abbiamo scelto, splendido. Io lo trovo molto interessante, perché è un pezzo assolutamente cantautorale, tra virgolette, visto che Libera Dante, cara Rossella, è un progetto aperto, quello importante, aperto a tante cose, aperto a tante colorazioni, e splendido è una colorazione tra le tante. Adesso sì, lo sentiamo. Infatti. Lo sentiamo. Va bene. Tragicamente la gente sorride negli angoli del suo maledire, come fantasmi si parlano muti in castelli di sabbia nel vento. Ma tu sei come un diamante fra cenere e fango, un airone leggero, e sul lago sei come un risveglio col canto del tesori e uomini da convincere. La scelta è una, la rabbia confonde parole, troppe parole. Ma tu sei come un traguardo sudato e ciò che un sorriso non riesce ad esprimere, come un padrone che ha liberato i suoi servi che corrono verso distese di grano già arato. Sei splendido, la luna sulla capitale. È veramente difficile scegliere un pezzo da inserire in questa ora, insomma, che abbiamo a disposizione Rossella da questo disco, perché sono tutti belli, cioè è difficile. Avete sentito anche voi? Addirittura. è difficile trovare un disco che poi, tra l'altro, bisogna anche sottolinearlo questo, il disco è composto da 11 pezzi, cioè è merce rara ultimamente, perché di solito usano fare 5-6 pezzi per il disco, invece tu ne hai fatti 11. No, 11, anzi ci siamo mantenuti. Sempre per non perdere altri 3 anni, insomma, degli arrangiamenti. Questo è un pezzo fondamentalmente pop, però la fisarmonica gli dà quel tono di popolare che non guasta assolutamente. La fisarmonica trascende, porta al discorso popolare, anche però se è un pezzo pop, caro Rossella, può essere un singolo questo qua, secondo me. Sì, infatti sì, ha proprio le caratteristiche del singolo. Poi c'è sempre questo dilemma, ma è più pop o è più etnico, ma è più così o più colino, perché oggi si tende sempre a etichettare la musica, insomma, come qualsiasi altra cosa. È brutto etichettare, però qualche volta serve per dare una colorazione, per dare un'indicazione. È sempre Francesco Emanuele che qua ha curato gli arrangiamenti lui, adesso, in questo momento, è sempre Francesco Emanuele che porta avanti assieme a te il progetto, oppure? No, Francesco Emanuele no, adesso sto lavorando con Carlo Longo, che è praticamente il fonico e l'ingegnere del suono, dove abbiamo registrato tutto il disco. Quindi adesso, infatti, i brani che stiamo arrangiando adesso sono a 4 mani con lui. Con Francesco, insomma, abbiamo fatto un lunghissimo percorso insieme, e poi, come ogni cosa bella, insomma, finisce per vari motivi. Certo. Ognuno, insomma, si fa la propria strada in maniera del tutto pacifica. Chiaramente. Però in ogni caso il pezzo era molto interessante, significativo, e l'insieme, cioè questo disco è importante perché come arrangiamenti è molto notevole, è fatto molto bene, è curato, ecco una cosa, 3 anni sì, ma è molto curato, cara Rossella, molto curato pezzo per pezzo, non ha lasciato niente al caso secondo me. No, e ti dico che 3 anni non sono passati in vano, no? Cioè proprio per la minuziosità, per la meticolosità che abbiamo avuto a sentire ogni singola nota, ogni singolo strumento, ogni singolo suono, eravamo entrati quasi in fissa, no? Quindi mi fa piacere che la cosa comunque traspaia a chi ascolta, insomma, che è tutto stato ben curato. Intanto Gino mi dice che ti conferma che siete amici su Facebook, Ah, perfetto, sì, no, infatti ho visto poco fa che aveva commentato che stavo riascoltando il disco, sì, no, ma comunque me lo ricordo anche attraverso Demo, se non sbaglio, lui è anche fan di Demo. Sì, certo. Senti, ho visto nella tua biografia che tu hai partecipato e sei arrivata molto avanti in tanti premi, dal Bianca da Ponte al Poggio Bustone dedicato a Lucio Battisti, e poi a Musicultura anche. Che effetto... Sì, sì. Che effetto ti ha fatto essere in questi premi, insomma? Ma guarda, l'esperienza più bella è stata quella che ho vissuto a Bianca da Ponte, perché comunque è un premio che consiglio veramente a tutti quanti, è il migliore secondo me, sia umanamente che come viene organizzato, eccetera, eccetera. A tutte le cantanti, perché è un premio solamente femminile, se non sbaglio, giusto? Sì, è solo un premio per cantautrici. Sì. E quella è stata l'esperienza che mi porto più nel cuore, perché comunque è andato tutto bene, dall'accoglienza, alla logistica, alle prove, al suono, insomma, veramente delle persone squisite. Musicultura è stato altrettanto bello, lì ero veramente nel panico. A Musicultura mi ricordo durante le audizioni sono entrata nel panico. Se sentite il canetto, via, che anche lui vorrebbe partecipare. Vorrebbe partecipare anche lui, sicuramente. Sì. Musicultura, sì, è il teatro, mi ricordo, forse si chiama il Teatro Cimarosa, quello di Musicultura a Recanati. È bellissimo, io ho visto una fotografia, è una cosa fantastica. Sì, è una cosa spettacolare. Un pubblico molto composto, molto serio, e devo dire anche un po' freddino, cioè nel senso c'era più, diciamo, più serietà, ecco. Mentre comunque il Bianca da Ponte, essendo altrettanto serio, essendo altrettanto importante, c'era più cuore, no? La Musicultura è come se prevalesse di più l'immagine, che comunque non è una critica la mia, è solamente una constatazione dopo aver frequentato vari concorsi, no? Però comunque un'esperienza assolutamente da fare, soprattutto perché ti rafforza, no? Ti rafforza e comunque ti rende più sicuro, perché se sali su un palco come quello che c'è a Recanati e ti esibisci davanti, quella sera mi ricordo c'era Simone Cristicchi e poi tanti altri, insomma, giudici accreditati nel mondo del giornalismo musicale, eccetera, eccetera, se riesci ad affrontare quelle esperienze puoi affrontare di tutto. Quindi mi ritengo soddisfatta, insomma, di averlo fatto e magari una grande il prossimo anno con i nuovi brani, vediamo. Certo. Apro una parentesi, Rossella, se ti può interessare, c'è il premio Bruno Lauzi che scade a fine maggio, il bando, se c'hai un inedito puoi mandarlo, poi ci vediamo magari ad Anna Capri, perché mi hanno invitato di nuovo anche quest'anno. Ah, perfetto, va bene, prendo in considerazione il tuo invito. Guarda, è un gran bel premio, veramente. Allora, prima di far sentire la prossima canzone, che poi ci parlerai, prima l'ascoltiamo, ti porto i saluti di una tua cara amica, di una nostra cara amica che abbiamo insieme, io e te, e cioè a Rebi Rivale. Ah, Rebi, in ascolto, Rebi. Ma dice che è appena rientrata, ma ha fame, deve ancora mangiare, insomma, quindi è tardi. Però dice che... dice che si sogna ancora gli arancini. Va bene. La prossima volta, quando magari vengo a trovare te, gliene porto un vassoio a te e uno a lei. Anzi, due a lei. Ecco. Comunque, Rebi... apro una piccola parentesi, Rebi tra poco sarà nei nostri studi perché verrà a presentare in anteprima il suo disco e questo mi fa un grande onore, un grande piacere averla qui. Lei è bravissima come te e infatti te canti nel suo disco con il brano Musicante. Bravo, esatto. Abbiamo fatto questa collaborazione, lei è stata qui a giugno, sì. Giugno-luglio se non ricordo male. Sì, è stata un'esperienza quella anche molto, molto bella, formativa, insomma, ci siamo divertite tanto. Quindi c'è stato questo scambio, ho scritto insomma qualche verso in dialetto, sì, l'abbiamo arrangiato insieme sempre a Carlo Longo, che è l'arrangiatore, in questo caso che ha arrangiato il suo Musicante. Ed è stato bello. Rebi è fortissima. Te lo leggo comunque il messaggio così come sta. Sono appena rientrata a Ago, devo ancora sedermi e mangiare, ma salutami Rossella, dille che mi sogno ancora gli arancini. Lei è lei è nel mio disco con il brano Musicante, una potenza galattica. Ma lo sai che grazie a lei ho cantato in siculo, ho trascorso dei giorni fantastici a Catania, sono ritornata a casa che scambiavo il giorno per la notte, non dico altro. Lei farà strada, è forte. Un bacio a tutti e due e a presto, va bene? Grazie. Va bene, adesso ci ascoltiamo questa taranta, va bene? Va bene, ok. Oh my. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Si parlava di video su YouTube all'inizio della trasmissione. Ecco, questo è un video che dovete assolutamente vedere perché è bellissimo. Poi tu che corri così bellissimo questo video, veramente. Che cado pure. Che cadi. E quella caduta era vera, non era addirittura compresa, insomma, sì? il soggetto. Sono caduta veramente. Allora, c'è Valerio che mi chiede come molto bella questa canzone, ma mi spieghi perché io su YouTube non la trovo? Deve scrivere Libera Dante, forse. Deve scrivere Libera Dante, Taranta, apostrofo S, Prayer. Taranta Prayer. Hai capito, Valerio? Ecco. Poi Gino di nuovo ti chiede, visto che si parla di musica della tua terra, della Sicilia, con questa Taranta, e dice: vorrei chiedergli, se è possibile, il suo rapporto con le altre cantautrici siciliane, tipo la Consoli, l'ha trovato, oppure Roberta Giolisano. Con Carmen Consoli abitiamo qui, lei abita praticamente qualche metro prima del mio portone. Ah, ecco, quindi siete vicini, vicini. Ci incrociamo ogni tanto, però insomma non abbiamo un rapporto personale, cioè nel senso non siamo mai andati a pranzo o a cena insieme, sappiamo dell'esistenza reciproca, però insomma non c'è mai stato scambio. È chiaro che la stimo tantissimo come artista, è una grandissima cantautrice e la adoro. Con la Gulisano invece ci siamo incontrate e conosciute a Musicultura due anni fa forse. E ogni tanto vado quando lei fa qualche concerto qui a Catania o nei dintorni, ci rivediamo con molto piacere. No, un rapporto tranquillissimo e di scambio, anzi io adoro scambiare idee con tutte le mie colleghe, insomma quelle che scrivono. E ho avuto modo di conoscerle appunto facendo i vari concorsi, perché prima pensavo che ce ne fossero veramente poche di cantautrici, no? Poi quando mi si è aperta a me questa realtà, ho cercato di approfondire il rapporto con tutte quante, insomma, quantomeno con quelle con cui mi sono ritrovata più in sintonia, no? Se c'è più feeling. Certo, tu hai parlato di musica popolare, questo è il pezzo assolutamente che proprio pesca da questo ensemble di musica popolare, però in un'intervista tu hai parlato anche di tuoi riferimenti musicali. Io mi sono molto stato soddisfatto e ho apprezzato un certo Jan Garbarek e un certo Philip Glass. Come mai Jan Garbarek? Sì, diciamo, non è che quando scrivo mi ispiro a Jan Garbarek, voglio dire. Però insomma anche Philip Glass hai citato con Jan Anastasi. Anche Philip Glass li ho ascoltati tanto, li ascolto tuttora, li seguo sempre. Li trovo, come dire, una specie di porta sull'infinito, perché sono in particolare Jan Garbarek, no? Parte dal jazz, sì. Però nello stesso tempo si apre ulteriormente, ha delle sonorità proprio che quasi mi fanno pensare la sua terra, no? In contrapposizione alla mia. Lui è nord europeo, sì. Io sono del sud del mondo. Quindi mi affascina molto la sua composizione, i suoi suoni e tutto. Anche se comunque non sono dei brani cantati, sono delle musiche, come anche Philip Glass, appunto, il minimalismo, insomma, di Philip Glass, che continuo a rivedere sempre live, perché Philip Glass viene spesso a Catania. E ogni volta che viene io vado. Vai a vedere il concerto. Sì. E al finale di questo pezzo, al di là che è un pezzo popolare, al finale di questo pezzo, gli ultimi secondi, può darsi che abbia un collegamento con lo stesso Philip Glass, con lo stesso Jan Garbarek, secondo me. Dopo, tu dici, io penso di sì, il finale levato via, cioè allontanato dal discorso della matrice popolare, il finale dà un indice per un qualcosa. Le note di chitarra sospese. Qualcosa che possa aprire determinati orizzonti, secondo me. Può essere, certo, sì, se lo noti, sì, non posso che dirti che sì, comunque anzi mi fa piacere, perché comunque la Taranta Prayer era partita chitarra e voce, no, con una cadenza molto attarantata e molto mediterranea. Poi appunto abbiamo cercato di farla diversa, di allargarla sì, anche con dei tamburi più larghi, con delle sonorità più nuove, vedi, c'è anche dell'elettronica. Esattamente, quel pezzo elettronico, quel qualcosa di diverso, secondo me è importante, è un indice. Si può ragionare, si può allontanare da certi schemi e portare a tirare fuori altri schemi, secondo me. Infatti. Allora, sono le 21.52, questa è Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Rossella Aliano, alias Libera Dante. La tua band si chiama proprio così, Libera Dante, giusto? Sì, il progetto è Libera Dante. Libera Dante. Il prossimo disco si chiamerà ancora Libera Dante? Certo. Senti, chiudiamo questa parentesi di Libera Dante con queste canzoni e apriamo una pagina nuova, cioè perlomeno abbastanza nuova, con una canzone che secondo il mio modestissimo punto di vista è un capolavoro. Grazie. Ali di Ferro, mi piace un sacco. Io l'ho postata diverse volte. È uno spot nei tuoi confronti continuamente stasera, vedi? Allora, l'ho postata diverse volte su Facebook proprio perché piace. Ho visto. Ecco, e ho ricevuto veramente. Hai ricevuto spessissimo complimenti perché è veramente un grande bel pezzo. Come mai è nato dopo l'uscita di questo disco, ovviamente? Insomma. Sì, quello è nato un anno e mezzo fa, credo. Comunque almeno 2 anni dopo che è uscito il disco. Sì, infatti non è stato inserito. E quello è nato, mi ricordo, è nato una notte. Io stavo per addormentarmi, anziché fare i soliti pensieri di fine giornata, ripensare alla giornata, ripensare a cosa avevo costruito quel giorno, a cosa avevo fatto di buono e di male. Invece mi è arrivata sta musica, mi sono alzata, infatti c'è ancora la versione originale, proprio scheletrica, sul telefonino, no? Che è proprio solo voce, con le parole tutte, quelle sono proprio le cose che quando arrivano dico: Dio esiste, Dio c'è. Immagino, una grande soddisfazione, insomma, questa. Sì. E poi, insomma, poi ovviamente è stata sempre aggiustata, arrangiata, ed è venuto fuori Ali di Ferro, insomma. Quello che è bellissima e che l'ascoltiamo adesso, poi ci saluteremo, Rossella, però per tutti i tuoi fans e gli ascoltatori, il gran regalo che tu hai anche scritto su Facebook, la facciamo sentire poi, quindi state lì, c'è un'esclusiva, una inedita assoluta di Rossella Aliano, però prima ci ascoltiamo questa splendida, veramente splendida, Ali di Ferro. Passando ci ho guardato dentro, ho veduto e ceduto all'inganno, svolazzavano quasi contenti, mi hanno visto e poi chiesto un passaggio, io perplesso ho allungato una mano, ecco un ghigno mi han tirato dentro. Circondata da terra e cemento, non che il mondo mi stava mancando, ma non sentivo l'odore del vento, pur al buio mi stavo adeguando, contemplavo quelle ali di ferro, come fossero l'unico omaggio che il destino mi stava facendo, ignorando che un falso presagio. Se vuoi salvare, devi prima salvare te stesso. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Benissimo, pezzo molto bello questo qua. Tu volevi scrivere una la canzone che secondo il tuo punto di riferimento era Hallelujah di James Jeff Buckley. Questa può essere, grazie al pathos che ci metti, può essere la tua Hallelujah praticamente. Magari, grazie, troppo gentile. Un grande pathos, grande trasporto. Questo è proprio lì, praticamente è l'essere di questo pezzo, il grande trasporto. Si sente che la canti con grande convinzione, questo è chiaro. Meno male. No, questo si sente, c'è poco da fare al di là di tutto. Bene, bene, sono contenta. Senti, Rossella, se qualcuno volesse acquistare il tuo disco. Se qualcuno volesse acquistare in digitale si può scaricare su iTunes tutto il disco. Mm-hmm. Sto aspettando che la CNI lo pubblichi su Spotify e sugli altri insomma canali digitali, gli altri punti di vendita online, però al momento si può scaricare e comprare su iTunes, credo costi niente, tipo 4 euro o qualcosa del genere, mm-hmm, perché è 99 centesimi a brano. E poi a breve sarà disponibile anche su Spotify, oppure una volta quando è uscito era anche alla Feltrinelli, in tanti punti vendita d'Italia alla Feltrinelli, ora non lo so se è stato, comunque ad ogni modo mi può sempre contattare, insomma lo spedisco io se poi lo spedisci a se casa si vuole tu. Proprio la copia fisica. Sì. Che è bellissimo, ricordo anche il libretto è molto bello, è carino, veramente fatto veramente molto molto molto bene. Grazie. E poi invece i tuoi dati, insomma, se qualcuno volesse contattarti, il sito mi potete trovare su Facebook o su Libera Dante direttamente, oppure su Rossella Liano direttamente sulla mia pagina Facebook. E poi avevamo un sito e un sito che ne stiamo costruendo uno nuovo, quindi al momento non c'è un sito, però comunque contattandomi su Facebook insomma mi trovate facilmente, insomma chi volesse qualsiasi cosa, disco per esempio. Rossella, ricordiamo la band com'è in questo momento? La band in questo momento è silenziosa, nel senso... silenziosa, ma chi partecipa alla band in questo momento? Almeno in questo momento silenziosa, nel senso non ovviamente in fase di stesura, certo, e di arrangiamenti, non stiamo facendo dei live di proposito, perché riproporre insomma il disco vecchio quando stiamo cominciando a pensare e pensando dove andare a parare su quello nuovo, insomma mi sembra anche, almeno io non riesco a fare entrambe le cose, quindi ho bisogno di un attimo di pausa per... Certo. Per capire, insomma, ecco, e costruire qualcosa di nuovo, perché sarebbe andare a riproporre gli stessi live degli scorsi anni, e che è un po', dopo un po', insomma... Stancano, secondo te. Ho l'esigenza di cambiare in continuazione. Certo, certo. Quindi per la band attendiamo ancora qualche tempo. Ecco, quello è importante. Sì. Va bene, Rossella, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, ti ringraziamo della tua disponibilità a partecipare e a restare lì con noi questa sera e con io i tuoi... ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato e spero, ritorno a dire, di venire dal vivo, insomma, così vado a trovare anche Rebby, vado a trovare i miei parenti che sono a Padova, a Mestre, e soprattutto vengo a trovare voi, insomma, con lo strumento in mano. Ecco, queste sono parole che volevo sentirti dire, a parte che ecco tanto... Magari facciamo un appello, visto che ti hanno ascoltato, magari se c'è qualche locale qui che ti vuole sentire dal vivo una serata, così magari abbini uno anche l'altro e fai tutto uno insieme, insomma. Va bene. Allora, facciamo questo regalo ai tuoi fans? Sì, questo è assolutamente un'esclusiva, nel senso ci ho pensato a lungo, poi ho detto, ma sì, vai, mandiamolo. Cos'è questa canzone? Questa canzone andrà a fare parte del prossimo album, si chiama Eden, abbiamo arrangiato e suonato insieme a Carlo Longo, che è l'arrangiatore del brano, è registrato, quindi è già pronto per essere inserito. però siccome insomma se ne sta lì nel mio computer, ho detto ma io quasi quasi insomma ho l'esigenza di farlo sentire e vedere un po' insomma che riscontro ha, quindi certo. Appunto sì, è un regalo che faccio a chi ci sta ascoltando. Ti ringraziamo anche noi, perché è un regalo che ci fa veramente molto onore avere un'esclusiva tua, insomma, prima ancora che sia pubblicata, quindi grazie. Rossella, un abbraccio gigantesco, anche in onore della nostra grande amicizia, e io spero di vederti presto qui a Padova, nei nostri studi, sai che le porte sono aperte, e ancora grazie di tutto e complimenti per... Grazie di nuovo di tutto a voi. E di cuore salutami la Sicilia. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao Rossella. Ciao, Rossella Aliano con Eden. Attraversano le onde nel silenzio della sera. Tanto passerà questa bufera, sguardo eroico nell'attesa, fa che il cuore spezzi il tempo e il vento. Posso dare